alle 7:30, io alle 6:30 ero lì, 6:15 già, 6:20, 6:30, capito? Controllavo tutte le macchine, cioè tutte le macchine erano a posto. E poi di lunedì Hilton mi fa, ogni Aruni, ogni settimana io mi controllavo le macchine, ogni lunedì io mi controllavo tutti i mesi, agli stendi. Ciao, buongiorno. E come stavo a segnare? Chi sono? E molte volte ero costretto a prendere il telefono a chiedere aiuto, perché se le squadre non partono, i lavori non vanno avanti. Non mi comprendi? Quindi ogni lunedì da noi è la stessa cosa. E questi personaggi, anche da poco, vi ho detto, state attenti ad aprire. Mi raccomando, mica la situazione è così. Oh, ma sai, ma no, tu, sì, io devo essere in conto a te, tu, in un mese, cioè lunedì manchi sempre. A chi ti fai mai rugabu, a chi la domenica ti sei cicciato, o a chi Ruruni si intesa male da moglieri, invece non è vero, a chi tu sei sempre cicciato, o l'altra volta a chi hai fatto un dato accompagnato il figlio Recura, invece tuo figlio lava la macchina, dimmi tu cosa ci devi fare, cioè, ti rendi conto? Mio sono tutti gli sassari quelli, a chi si è salito Ruruni è negato a travagliare. E io quando ho lavorato a Sassari, ho lavorato con Nesi e Bartoli, i sassaresi il lunedì non c'erano mai. E hai detto beh, tu i sassaresi un po' tu del riso, capito? Aspetta che non suono. E allora, scusa che non ho suonato quella di su. Cioè mia figlia stamattina si è alzata con questo dolore al petto. E quindi ha pronto soccorso, adesso è in osservazione, niente di grave, un po' di stress, e un bel, sto vedendo il travaglio, prendere un gulo e la vicina, ore, poi per fare che cosa? Crolli e sei punti a capo. Da noi finite quelle ore, molti rimanere tutti andati, non hai, guai, addirittura tu sta andando, e la legge sta andando in favore a noi, che certe cose che facevamo prima non ce le fanno fare, quando gli diciamo, no, facciamo a mano quello, no, passa la sicurezza e ci rovina, ci buttano fuori, e hanno paura proprio, perché una sicurezza è omicidiale, adesso che non c'è più niente dentro, è peggio di prima. Ehi, lo so, ho fatto anche quello, responsabile della sicurezza, per poco, perché stavo sostituendo uno che era stato operato, però è anche quello, bisogna stare molto attenti, sicurezza oggi nei cantieri e negli impianti è molto interessante, nel senso che bisogna avere gli occhi aperti, se no è un casino, capito? No, vabbè, lei è un po' stressata, un po' di stress, di sto dolore, hanno fatto quello che aveva, ma tutto a posto, però la stanno tenendo sotto osservazione perché visto che ce le fanno delle analisi, delle cose più approfondite, e l'hanno tenuta adesso in camera. Infatti siccome questa c'ho sopra, il terzo piano sopra di me era caposala all'ospedale civile, capito? E è venuta che la mia moglie c'era bisogno di qualcosa che stava andando lì. E vabbè, purtroppo è così. Il lavoro, dove ti dica, se lo prendi con tranquillità e con serietà riesci ad arrivare a quella che è la fine di tutto, no? Cioè andare in pensione tranquillo, con molta tranquillità. Se invece Robini a Puntiglia, purtroppo nel lavoro ci sono le persone più puntigliose di te. Io ho coperto diversi incarichi e ti posso dire che il mio comportamento nel, sul, sul, sul personale è stato sempre a livello molto familiare. E loro così mi hanno sempre trattato a me, tanto è vero che sono un po' preoccupati perché ancora non è arrivato il sostituto. Io spero che sia una persona valida, una persona che capite come avete capito me, come siamo comportati noi e cosa abbiamo, insomma, di continuare a fare quello che noi abbiamo iniziato a fare. E loro mi hanno risposto: se chi viene a sostituire te è come te, noi continuiamo a fare quello che facevamo con te. Se uno che dà disordini e non sa manco un isciugo dei disegni, allora noi ci comportiamo di conseguenza. E il discorso è quello, è valido, non venuto a va, perché a dare ordini siamo buoni tutti, a collaborare invece mi pare siamo in pochi. Certo che loro si basano sempre al lavoro che faceva quello che se ne è andato, e quello là gli dicono: guarda, Riccardo, devi fare quello che faceva per l'altro, e lui gli fa: se non lo sai, io gli vado di pure. Io ho capito, lui per forza deve seguire quello, perché io tutte le mattine a me mi arrivava il fax in ufficio prima di uscire con l'ordine di servizio, quindi sì, io so che durante le 6:40 devo svolgere, devo far svolgere queste determinate cose, le devi fare. Se poi è chiaro, il tempo è quello, non ce la fai, domani devi recuperare. Tanto è vero che io molte volte dicevo: cosa avremo? Ci tratteniamo o finiamo? Finiamo, togliamocelo dalle balle. E mi davano retta, lo facevamo, ci trattenevamo. Allora tu tacca, tieni, dicevo sempre, il coso della cassa, oppure i ticket eccetera, tu vai a fare il pesa, che fra appena arrivi tu molliamo, ci fermiamo un'ora e poi riprendiamo. Però fra devi anche sapere svolgere le mansioni che ti danno, perché se non le sai svolgere, cioè uno che rimane senza sigarette, chi fuma ti dice: cra, non c'ho sigarette, le vuole mie? No, non mi piace, allora vai a comprare i giardini, muoviti però, muoviti veloce. Ci sono quelli che dove stai andando, come le sigarette, la sigaretta te la fumi, che te ne hai fatto a me una buccia. A me me l'hanno fatto andare a Cagliari, c'è il posto fumo, tu lo sai, no? In tutte le raffinerie c'è il posto fumo. C'era il responsabile che ha detto: scusi, io volevo fumare una sigaretta. E lui la sigaretta se la fuma quando ha finito di lavorare a casa sua. Come metti? No, ho capito bene. Ho girato le spalle e sono andato al posto fumo. È venuto al posto fumo e mi ha fatto la lettera di ammonizione. Tu lo sai una cosa a proposito del fumare? Che da giugno hanno fatto tutto fumo. La gente ha protestato, sai, cosa gli hanno detto? Quello che ha detto tu, la sigaretta se la fuma, questo non ce la lavorare a casa sua. E esatto, vai, chi vi ha portato, se ne ho sentito tutti colui, e va bene, ma io sto parlando del 91, cazzo era Cagliari, 91-92, però ero ragazzino, cioè, ma domani tu, a parte il fatto che io non stavo neanche facendo niente perché stavamo preparando, io facevo già l'aiutante di Bussolì, in Chisciano, quindi c'era il geometra che era il capocantiere, io stavo mantenendo la stadia e lui stava prendendo le quote, con livello cannocchiale, stava battendo le quote per il calcestruzzo. Quindi abbiamo finito, ero uscito, ha pugnato la stadia e gli ho detto: geometra, vado a fare una scelta, posso fumare? No, tenga la stadia in mano, la sigaretta se la fuma quando abbiamo finito di lavorare. Se ci occupiamo, cosa vuoi fumare una sigaretta? Ero a 20 metri al posto fumo. Come ho detto così, mi sono girato le balle e sono andato lo stesso. È venuto col foglio dell'azienda, mi ha fatto la lettera, il primo richiamo scritto che io ho preso è proprio quell'anno lì, capito? Per abbandono del posto di lavoro. Mette le gaggi con cazzo, gioco in chivi. Abbandono il posto di lavoro, non è che avevo licenziamento in chivi. Vabbè, quegli anni, cosa cazzo licenziamento? Quegli anni era così, mi credeva nei poco i coglionati. Vai adesso guardati disciplinare che c'ho ancora la coppia io, a casa, del contratto di lavoro, il disciplinare del aziendale a vedere cosa dice. Guardo i muviti senza il permesso dell'assistente, del responsabile, di tutti, a vedere, ma anche dal capo squadra. Se il capo squadra ti dice no, rimane lì perché c'è bisogno che rimane lì, e tutti in Nandia aveva dei giocatori, ti licenziano il tronco, ti licenziano il tronco. Allora era così, ma vi ha scritto quando mi posto il lavoro, cioè firmi, sì che lo firmo, e basta, e non è successo niente. Non è successo niente assolutamente. Io da lì poi ero andato via proprio quando avevano finito il depuratore, che la Simocco, la ditta di Milazzo, l'aveva collaudato, e da lì io poi sono arrivato direttamente a Sassari praticamente, capito? Non ha influito niente, perché secondo me non l'ha manco presentata in azienda, ha fatto proprio per fama sua, capito? Ma io non mi sono spaventato, perché io il posto di lavoro l'ho mandato, sono da 20 metri, cazzo come vedi? Ha già fatto un volo di mano, perché poi mi ha detto, ha finito questa sigaretta, allunga questa sigaretta, ti sto arrivando. E subito ho ripreso la strada e sono andato a fatto vedo a tirare le altre quote. Va bene, qua, io non è che mi ricordo un po', però stanotte mi canto il buco. Ma ci sentiamo, dai. Ciao Fra, grazie alle due chiacchiere di tutto, dai, ho baciato un'oretta, buon riposo, e anch'io adesso mi sdraio un pochino a riprendere la radio e stasera, dai. Comunque, in bocca al lupo per tutto e fammi sapere, ok? Ciao Fra. Sì, già siamo qua, ogni tanto già entro, già quando sono libero, già non c'è problema. Quando non entro vuol dire che ci sono impegni. Sentiamo, ciao. Ciao Fra, già lo so, mi fa solo piacere se ti fai sentire, dai. Ciao, buona giornata, alle prossime, ciao. Ce ne sono sul canale 10? CQ, canale 10, CQ. Catalino, dove sei Catalino? Scusi, c'è qualcuno all'ascolto? Sì, io ho chiamato anche poco fa, non c'era nessuno. Oh, ciao, Cla, buonasera. Grappa. Chiamato poco fa, non ha risposto nessuno. E io sono arrivato adesso. Oh, io chiesto poco fa, sono uscito a prendere due cosette e sono rientrato, cazzo che è un freddo. Beh, tempo suio, E la Madonna, ma... tutta un'ora, Fabio, la maglietta è sotto, un giubbotto leggero, se non arrivo a casa in presa mi piscio sotto. Triste. No, freddo mi ha fatto io, davvero, mi sto scherzando. Un po' di freddo c'è fuori. E Marcolino non si è sentito, no? No, non l'ho sentito per niente, né stamattina né stasera, non lo so, se non è ancora cotto da ieri. Perché ubriaco era ieri. E allora, ubriacarsi è andato. Allora era con Antonello, così? Sì, era con Antonello. Ma stai scherzando, non lo so, non l'ho sentito per niente. Se non è ancora in coma, davvero. Deve essere ancora ubriaco fragico. Non lo so. No, c'è il corso sul 23. Sempre subito, io sono sul 23, infatti ero sul 20, ero ascolto, non sentivo nessuno, mi sono spostato e mi ho sentito sul 23, però Marco non c'è, non so dove. Sì, sarà addormito ancora, o è a cucendi, sta facendo le orecchie di porco. E se sente già entra, non c'è problema. Sì, infatti. Mamma mia che noia, cazzo. Non ti dico, Parita, ti dico, faccio il diva lì. Non lo so. È per uno che è abituato a andare e a tornare, non passa più no, si c'è sempre dentro casa. E io già vai in giro, cioè. In giro venivo poco di là. No. Devo stare a casa, io lunedì esco per il mercatino e basta. Come rientro stamattina, sono alto, solito caffettino, ho fatto due commissioni a mia moglie, ho dato una mano a fare un po' di pulizia più pesante, insomma, però sempre molto triste la cosa. Ma che vuoi che ti dica? E cosa vuoi che ti dica? Nulla. non c'è niente da dire, no? Oh, yeah. Mimì, e cosa ti fa male? Ehi, aspetta, c'è un freddo, io ho freddo in casa, non ci siamo organizzati con le stufe. Guarda, sono in camera mia, seppellito sopra le coperte, sono vestito, ma ero seppellito sopra le coperte perché ho freddo, ho un freddo proprio freddo. Poi sai, a qualcuna piacciono le finestre aperte, perché è claustrofobica, e quindi il freddo entra. Tu la duia devi andare a salvi tu, ma se la fa la raduia, tu che non sei claustrofobico, io qua sto bene, 21 gradi. Eia, ciao Claudio. No, la mia già è chiusa, ci mancherebbe, ma ho freddo, si sta bene sotto le coperte, mi, qua ci sono 16 gradi, in questa stanza è 16 gradi, per i miei gusti sono pochi, capito? Ho i pantaloni estivi ancora, sono sottili, mi devo organizzare un bel pantalone felpato. Chi è che fruscia sul 7 PMR, buh. Capito? Me lo organizzare un bel pantalone felpato, camicia felpata, e ricominciamo il periodo invernale. Pigiamone Michele, come dice Claudio, io ce l'ho. Io ce l'ho il pigiamone, il senso d'inverno ci vuole quello, ma. Ma di notte, quando vai a dormire, non di giorno quando sei vestito, no? No, io sai cos'è, anche se sono a casa sto sempre vestito perché magari poi devo uscire a fare una commissione vicino, sai? E insomma, io mi svesto solo la sera quando vado a letto. Se non se mi dovessi svestire ogni volta detto una cosa a casa, sarei vestendomi e svestendomi sempre. E già, sì, comunque, poi io scommetto che quando mi metto pantalone felpato, la camicia felpata, insomma tipo invernale, viene il giorno dopo di nuovo un caldo boia e mi devo di nuovo mettere estivo. No, io ho due pigiami, uno è ancora estivo e l'altro proprio pigiamone, bello teccio. Durante il giorno che riscaldamento è spento rimango col pigiamone, poi la sera dopo le 8 metto il pigiama leggero. E non pensare neanche qua, c'è il riscaldamento acceso, ci sono 19 gradi neanche, 18 e mezzo, quindi, ma acceso alle 5, un'ora già, sino alle 10, 10 e mezzo. Però c'è un po' di freddo fuori, cazzo, sono uscito poco fa, sono rientrato, devo fare delle commissioni a mia moglie, è vera freddo, sono uscito e ho acceso il riscaldamento della macchina. Guarda, io andando e tornando da Pomponio ieri sera ho usato il riscaldamento per la prima volta il riscaldamento in macchina, e con il riscaldamento ti assicuro che si stava bene, ma senza, mi avrei giù. Sono andato via da lì, che c'erano state le 11:15, e c'era una bella ghiaccetta, poi lì in alto, figurati. Questo dicendo, c'è un po' di freddo qua, io volevo portare il cane alle 8, c'è un po' di freddo. Beh, sei stato bene, tutto bene? Sì, tutto bene, abbiamo mangiato cose semplici, ma buone. Poi io non ho bevuto niente, mio Antonello, ben poco ha bevuto. E va bene. Io gli ho fatto un regalino, Ehi, cosa gli hai regalato? Un'altra radio? L'importante sia andato tutto bene, siete stati bene, poi per il resto in quel contesto si può anche bere, quando si è a casa così non ce ne sono problemi. E cosa hai regalato? Diciamo che ci hai azzeccato. Io, i due portatili digitali erano miei, no? E siccome parlo sempre solo con lui, gli ho regalato uno dei due. Ho detto, questo adesso diventa tuo, gli ho portato la scatola simbolica, no, perché portati le caricabatterie ce l'aveva già, e gli ho regalato quello, dai. E Giuseppe, una bella confezione l'indoor, o come si chiama, di cioccolatini, ma buoni, mi. No, è meglio così, eh. Vabbè, matto, vuol dire, se l'hai regalato vuol dire, se lo merita. Poi va bene così, non c'è problema. Ok, ok. Cosa stavo dicendo? Niente, stamattina, ma all'una che era, alle due, alle tre e mezza sono matto con Franco, in radio sul 10, chiacchierando, parlando un po' di pensionisti, che eccetera, con Franco di Sos. E poi alle tre mi sono sdraiato un pochino, poi alle cinque sono uscito, sono entrato poco fa. Vai Natalia. Iaia, cosa che mi avete detto niente, nessuno. Di cosa? Del coso, del compleanno di Pomponius. Buono, a me mi ha detto Giuseppe ieri mattina, che sono andato da Nico a prendere il caffè. C'era Giuseppe. Gli auguri e basta. Poi Marco ieri sera quando era in radio ha detto appunto che stava andando a c'era l'Antonello, però io non ci ho manco pensato, dietro mi sto guardando questi filmati di caccia al cinghiale, mi sto appassionando, che solo che non c'ho fucile, già ce l'ho il fucile, ma avrei voluto il 302 che avevo prima. Ma calibro 12? Eia. Ma il Beretta? Eia. Eia. Ehi, ce n'è un bel di fucili moderni. Anche marche cinesi come Norinco, come si chiama? Economicissimi mi. Ce n'è tutte le misure, dai più corti e più lunghi. Eia, ce l'ho. Volendo ce l'ho, c'ho il fucile a pompa, calibro 12. Ma io per andare a calcio al cinghiale avrei voluto il 12 che avevo quando andavo a caccia io a caccia grossa non ci sono mai andato perché avevo paura delle palle che rimbalzavano. Eia, sì, un semiautomatico va bene, è bello. Poi c'è qualcuno che usa sovrapposto, boh, doppiette sovrapposti. Sovrapposto ti piace? Sì, già mi piace, ho sparato al tiro al piattello con quello. Adesso sono vadimo dalla carabina, mi. Cazzo, un bel 308 Winchester, so che 30 sì è troppo grosso e crebbi lusinghiale. Oh, Marco, guarda il l'Avan 48 con l'MB più 5, come va? Va, fammelo sentire meglio. Contai, questo diceva un po' acuto, Questo per la chiesa, lo sai, vai. Sì, vabbè, questo c'ha vari acuti, i toni sono a zero. Guarda, stamattina Massimiliano mi ha detto che va meglio dell'altro MB più 5 che c'ho sul Galaxy. Ah, i toni sono a zero. Aspetta, io credo che avessi il tono a 5. Sì, perché da me quando è a zero esce cupo, Invece su quell'apparecchio sembra che vada bene. E ti dirò che ancora sia un po' acuto. Ma ripeto, questo baracchino riceve più acuto, quindi. Meglio, il volume a quant'è? A metà 5. Da 5 mi chiedi una manetta. Dai, questo mi va a 48. Davanti non sapevo cosa fare. E allora ho messo in funzione sopra il 275H che c'era spazio. Per fare due chiacchiere in città uso anche questo, però sempre col microfono di tavola, microfono da palmo io non li voglio. Natalì, tu bene mi senti? Ehi, 8 watt c'ha questo, 8 watt, 8 quasi 10 modulati, dai. Questo 4 watt. 4 watt? No, questo ne ha 8 di watt, 8 watt. Va bene, riprendi Marco. Questo se lo metto a 5 già disturba. Ah così, eh? No, io questo lo uso quando non c'ho gente vicino che parla, perché sennò non sento niente. Allora adesso ho commutato. Giusto per fartelo sentire Marco, quindi va bene. Promosso? Marco. Ehi, aspetta. Mi volevo portare una coperta, perché mio, me ne vado in camera. Mi seppellisco sotto le coperte. O sto qua e mi porto la coperta. Sto ballando con le gambe, mi. Vabbè, ma sono io che sono freddoloso. Io soffro tutto. Soffro il caldo, il freddo, il medio. Tappa di vecchia mantellina, chi non stessi vecchia piuma di gattina. Mi metto la pelliccia di mamma. Freddo c'è questa casa? No, mamma ha detto che non c'è freddo così. Sono io che sono freddoloso. Sono freddoloso. Soffro il caldo e il freddo, tutte e due. Diciamo che io stare fermo, ero fermo, io freddo, no? Dovrei muovermi di più o coprirmi. Eia. Bene, poi ieri, quanti eravate in radio ieri? Ci vi ho lasciate che... quanti eravate? Non me lo ricordo. Quando sei andato via tu, io dopo un pochino sono andato a portare a, a Filippo. Poi sono rientrato, c'era Natalino, poi chi c'era Natalino, Eugenio, mi pare, boh, e già ce n'era di gente, dai. Com'è che stamattina io ho fatto due chiacchiere con Franco, e poi niente, e poi mi seguo cucato, però dai, già, movimento già ce n'era ieri sera, dai. Eia. Allora, quel G9 pare esca bene di radio e dovrebbe essere splash proof, cioè è impermeabile a goccioline tipo pioggia, schizzi, ma non subacqueo, certo, se lo butti in acqua no, però se scende qualche goccetta di pioggia così non gli fa niente. C'è guarnizione, infatti, cosa che non sapevo fare, che sull'altoparlante e anche sull'ingresso microfono, sul forellino, abbia una membrana di gomma per evitare che l'acqua entri sull'altoparlante, eccetera, e su altre parti. C'ha delle piccole guarnizioni anche nel vano batterie. Ah, ma quello l'ultimo che hai comprato? Eia, è leggermente resistente a gocce di pioggia, così, schizzi. Invece tutti gli altri no, l'MT50-50 no, capito? Quello, basta una goccia di pioggia e se ne va al creatore quel... Comunque bellino, dai, bellino. È più piccolo, mi è più leggero dell'MT50-50. L'MT50-50 pesa perché ha 5 batterie anche. È più basso anche me, capito? Me lo immaginavo più grande, invece è abbastanza piccoletto, dai. E poi importante che esca bene. Mi hanno dato buoni controlli, quindi. Ok, fra un po' mi faccio la collezione di questi, ah? Era bello il Polmarisi, però vedi, sai perché l'ho preso io quello? E non il Polmarisi? Perché questi Polmar hanno tutta la batteria a litio. Quando fra 5-10 anni spariranno le batterie, anche prima, il portatile ti attacchi al sedere perché non hanno batteri eliminator. Invece quello, metti che finisci le ricaricabili, basta che ci abbia delle pile stilo, ci metti le pile e funziona lo stesso. Cioè le batterie le troverai fra 10, 20, 50 anni e più, capito? Finché campo troverò sempre le batterie di quello. Sia ricaricabile sia pile. Sono molto più versatili, capito, con le stilo. Sì, me l'hai detto che hai fatto la cosa, come si dice, le ricariche nuove, dai, già va bene. No, io quello che uso sempre c'è l'alimentazione a 12. Il Lux mio c'ha, sia lo puoi usare sia carica batteria che alimentazione a 12. Quando lo tengo qua a casa è sempre alimentato a 12 volts. Mentre l'altro lo carico quando mi serve, ma nel portatile io ne uso pochi, Marco, capito? Prima me lo portavo sempre in giro, adesso non più. No, non ho più niente, cosa se me lo porto a fare, poi vediamo un cagolaino. Avanti, Natalino. Sì, infatti. Adesso poi non sentiremo più nulla perché tutti sono passati dall'altra parte e siamo rovinati. Sono tutti punti in digitale, tutti sono collegati in analogico e in digitale. Ieri stavo ascoltando l'RU4 ed era in digitale. E oramai la tecnologia è quella, Natalina, è venuta la vada. Non c'è niente da fare. Bisogna attrezzarsi, almeno per ascoltare, però un ricevitore digitale costa la barca di soldi. Vai, Marco. Sai, Natali, sai quando... vabbè, adesso ancora i radioamatori usano un po' l'analogico, un po' digitale. Il ricevitore digitale, che poi è anche analogico, sarà logico comprarlo quando tutti saranno digitale, tutti. Tutti i radioamatori almeno, perché sai, in teoria quelli sono opere radioamatori. Per esempio quello ARDV1 è uno dei primi usciti, per quello forse un sacco, ma fra vari anni, 5 anni, insomma fra vari anni scenderanno i prezzi. I ricevitori ne faranno di tutte le marche, tutti i modelli, anche i portatili digitali, capito? Allora avrà un senso, quando i radioattori proprio abbandoneranno l'FM, anche se non è da abbandonare l'FM comunque. Ricordati, saranno analogici e digitali, non solo digitali, non avrebbe senso farlo solo digitale. Ecco, a questo punto volevo dire a Claudio che quello portatile analogico-digitale stranamente non ha il battery eliminator, no? Quella finta batteria, no? Col cavetto accendisigari, non ce l'ha, ho controllato, no? Non esiste il battery eliminator per quella radio. E siccome c'è da 5 anni in commercio, no? Secondo me. Sì, dovrebbe essere un 5 anni. Quando spariranno le radio in vendita e quindi anche le batterie, io fra anche 2 anni, non so quanto durerà la batteria di serie, io fra 2-3 anni non troverò più le batterie e le mie magari saranno esaurite, allora sarà un problema. Sarà un problema perché sarà inutilizzabile. Non li puoi adattare niente lì, ci vuole la batteria sua. Le batterie del network non le trovi e fa alla fine tipo del TH75 e tutti quelli radio là e non trovi più batteria, capito? Forse è stato a stilo, a pile stilo, vabbè, cosa impossibile, sarebbe stato quasi eterno, capito? Sì, sono passato un momento con questo, giusto per farlo sentire. Il mio, il box, tu stai parlando del quello cinese, Mofeng. No, questo della box c'ha l'attacco a carica batterie e l'attacco per i 12 volts, quindi io siccome lo tengo sempre attaccato, acceso col microfonino tipo veicolare, allora c'è l'alimentazione attaccata, capito? E lui funziona a 12 volts, e poi è 13,5, non 12, c'è scritto così. Va bene. Questo è anche l'altro che c'ho, ma lì non uso quasi mai, uso sempre uno, basta. Avanti Natalino. Ma io non ne ho problemi. Il portatile non mi piace, va, mi rivendo, istituisco il raggio. No, ma neanche io, Natalino, non sono amante dei portatili, solo che per noi animatori un portatile ci vuole, capito? Perché come adesso che tutti i punti sono situati in ottime posizioni, chi esce aggancia il ponte tranquillamente in città senza stare, anche se non hai la radio grande in macchina, capito? Non è il mio caso, ma comunque chi ne fa uso è giusto che il portatile ce l'abbia, io ce l'ho da sempre, ne avevo due addirittura, uno l'avevo l'altro, sempre di Vox, capito? Va bene, quindi sei soddisfatto Marco, dai, funziona bene quel portatile adesso. Sì, sempre, cioè una spesa, vabbè, non dico inutile, ma giusto per sperimentare, una volta che hai sperimentato, noi preferiamo l'analogico sempre. No, ti dicevo, del Baofeng c'è il battery eliminator, ce l'ho pure mi, del Baofeng UV5 del UV5R Plus ce l'ho, però di questo digitale, no, quello nero che hai visto tu con la marca coperta, non esiste il battery eliminator, e appresso cesseranno anche la vendita delle batterie, sarà un problema, perché la batteria quanto può durare all'inizio, 2-3 anni, massimo 5, ma... Dopo di più, dopodiché il nulla, capito? Sarà da buttare l'apparato. E vabbè, buon viaggio. Pazienza. Questo è il coso di... Lo stesso il TH75, il TH77, il TH78. quando non ti trovi più la batteria è un problema, non ne trovi più, non... a meno che non colleghi, non saldi i fili, eh? Certo, se saldi i fili dentro l'apparato e lo colleghi all'alimentatore regolato a... quant'è il voltaggio? 7,4 volt, allora funziona, ma cioè non te lo puoi portare appresso, capito? E infatti l'MT5050 ha pile stilo e lo stesso questo, invece il Brondi FX Dynamic è a mini stilo, batterie ricaricabili mini stilo. Aspetta che stanno parlando di radiatori a basso, ecco. Allora, mentre invece questo, aspetta mi pongo di PC, perché io c'ho quello della Icom, quello della Icom solo UHF, e questo devo mettere l'ICB4E, UHF FM, a tastiera eccetera. Questo c'ha l'alimentazione 12 volts, capito? 12 volts. Quindi dal pacco batteria a me non me ne affutti nulla, eh? Attacco BNCI senza grandi problemi, vabbè, adesso mi sono ricordato, me l'hai detto tu. E questo si può usare tranquillamente anche in PMR e LPD, capito? Sì, una volta nei portatili amatoriali mettevano anche la presa per l'alimentazione. Adesso non so se più sia più così. E comunque vedi che, oppure che ne so, certi portatili moderni ti danno il pacco batteria e più ti danno un portabatterie vuoto per mettere le pile, in poche parole, ma non sono tutti che lo fanno, non sono tutti che lo fanno. In modo che in caso di emergenza, se hai il pile, se hai batterie ricaricabili, metti quelle nel pacco vuoto e lo alimenti. Sì, sì. No, ma io ho proprio tolto il pacco batterie, ti ricordi quello che era un bel grande, quindi è diventato piccolino e lo alimento. Attacco BNC ed è perfettamente funzionante. C'era il display piccolino, in alto, non so se te lo ricordi, dici di 2, quello lì, ed è della Icom. E quando è uscito costava una barca di soldi, mamma mia! Questa era della buona Michelo Titano, una tariffa. Della buona Michelo Titano. L'unica cosa che sono riuscito a farmi dare era Giacomo, perché lo volevo prendere il. Volevo portarmi via il 440, non me l'ha voluto dare. Non me l'ha voluto dare, ecco che lo tengono lì fino a quando si vede che già, e vabbè, fai così. Allora ho detto dammi qualcosa Riccardo, ho detto prendi quel portatilino, dammi, non ho preso il portatilino, e ce l'ho io. Ma l'IC02 o l'IC2? Ma scusa, aspetta che mi metto gli occhiali. Allora, IC0 questo, sbaglio una D, IC04, no, questo è l'IC, D4E, monobanda UHF. Ah, vabbè, no, è un'altra cosa. No, invece io, secoli fa, da Marco Micchi, che portava roba dall'America, avevo comprato l'IC02A. Era un monobanda UHF, era un portatile. E perché era? Perché era la versione americana. E infatti non aveva il tono 1750, perché gli americani usano i toni DTMF per i ponti, IC02A. Poi vabbè, non me ne sono fatto niente, non potevi trasmettere, non potevi, dovevi sperare di ascoltare qualcosa, ma poi l'avevo venduto. Perché non ha senso una cosa del genere. Non esisteva il PMR, non esisteva l'LPD all'epoca, non potevi usarlo da nessuna parte, se no i guai. Poi la VHF solo, ne avevo due versioni europea io. Ti ricordi Natalia che c'era l'IC, c'erano due uguali, erano male, qui ce l'avevo tutte e due, c'era l'IC 02, mi sembra che era VHF, D2E. C'era l'ICB4, che è questo che c'ho io della Icom. Ah, costavano una barca di soldi, degli espansi, tutto, capito? C'è da fare per il microfono, poi c'è tutto, potenza alta, potenza bassa, tutto c'è. E la cosa buona è che praticamente c'ha l'attacco BNC, capito? Molto semplice. Ma ma quelli sono i migliori, dicono, ma sono i migliori per quelle bande, non c'è nulla da fare. Tutto il cielo non è solo messo il traverso, lo metto di alimentazione e lo attacco per vedere se riceve meglio o peggio del Voxion. Adesso la ributto in Kiwi e va bene. Avanti Marco. Mamma mia, quando penso che negli anni fine 80, inizio 90 c'erano quegli Intec con i Contrabass, quell'Intec VHF con i Contrabass, con le rotelline, mi permette la frequenza. E poi esisteva anche di marca Outlook, veramente locale Claudio, Outlook, sempre con le rotelline, e c'erano sia VHF che UHF di varie marche, ma erano un incubo, non avevi scansione, erano pesanti. Io ne avevo uno, lo sai, me ne era rimasto uno da secoli, senza batteria a me di questi Intec, ed era il modello però che aveva tre bande, cioè tutti 140, tutti 150 e tutti 160, c'era il selettore delle bande. L'avevo buttato, mi pare, nella mondezza, lo sai, che non serviva a niente, era sordo, era poco sensibile, non è mica con i portatili, già il Baofeng li fa 101, gli fa le scarpe mille volte, l'avevo buttato nella mondezza. Ehi, già me ricordo, l'ho avuto anch'io, però funzionavano bene, mi. Come portate le VHF, io c'avevo uno di quelli della Intec inizialmente, ma ti parlo degli anni 90, capito? Funzionavano bene, però l'antenna era buona, c'era una bella sensibilità, poi ne avevano fatto altre con Travers così, capito? Poi chiaro, insomma, ti adegui, avevano fatto un sacco di portatili, mamma mia, quando mi ricordo quelli della Kenwood, TH75, TH78, un pacco di dinaria, che domani non tare, tutte le volte gli arrivi a roba, mi chiamava, io lì, pronto, vai! Il TH75 è bello, ma inutile all'epoca per me. Però mi sensibilità, non 0,25, 0,20 come i Baofeng, 0,16 microvolt, 0,16 microvolt, era di una sensibilità estrema. Poi pentitomi, rivenduto tramite Mario, te l'avevo detto, no? Rivenduto tramite Mario, mi ho reso conto della follia che avevo fatto e l'avevo rivenduto a prezzo praticamente nuovo, perché ce l'avevo solo 2-3 settimane. Marco, già sei d'accordo tu, il più sensibile di quelli dei portatili come ricevitore, come trasmettitore, ma parliamo come ricevitore, il più sensibile dei portatili era quello che hai detto tu l'altro giorno, che c'ho anche io, che l'ho trovato dentro l'armadio, però purtroppo non accende. Ma quale? TH75 o quale? No, dei ricevitori, il più sensibile dei portatili, ricevitori, è quello che avevo io, che ti ho detto l'altro giorno e che non accende più. Ah, aspetta, no Unidon, come si chiama? Il Black Jaguar, mamma mia, con quell'antennino elicoidale prendeva di tutto, su tutte le bande, VHF bassa, VU. Era un bijou e peraltro è stato il mio primo ricevitore e lì era tutto in chiaro, era un... guarda, una porra era. Ce l'avevo anch'io quello, il Black Jaguar. Cazzo, ma di cosa riceveva quel ricevitorino? Ma cosa era, ragione Marco, tutto in chiaro, di tutto, telefonini, ti ricordo c'erano 400 mega, telefonini, poesia, carabinieri, vigili del fuoco, guarda via, tutto, tutto, guarda costiera, di tutto, vigili urbani, tutto. Il problema ci aveva gli sbalzi, però a quell'epoca quegli sbalzi erano proprio giusti, erano giusti. Guarda, era come gli Uniden che ho adesso, l'Uniden portale, era 66-88, tipo la banda aerea non so se ce l'avesse, o forse sì, poi era 140, 100, già hai capito, no? 140, 174, 4 e fruscia, 4 e 70. E così è l'Uniden che ho adesso, capito? Tutto a salti è. E mi piace come ricevitore l'Uniden, più schematico, capito? Più essenziale. scanner, diciamo, l'unide è uno scanner per eccellenza, invece quello che ha la notarina è più ricevitore, che c'ha il VFO, capito? Ha il VFO più le memorie. Ehi, ehi, ehi, non ricordo, bellissimo ricevitore, mi serveva una cosa allucinante, avevo fatto anche il porta ricevitore con una foglia di lamiera verniciato in nero opaco, bellissimo, bellissimo, era una canonata, guarda, con l'antenna sua, quando gli attaccavo l'antenna esterna, era una cosa allucinante, allucinante, lo so, non accende più, ce l'ho. Non accende, anche se le do l'alimentazione, non accende. Non lo so cosa è successo. Si sarà bruciato qualcosa all'interno. Non lo so, deve dentro l'armadio ce l'ho. Vabbè, pazienza. Vai Natali. Io avevo anche l'RZ1 della Kenwood. Eia, ah Natali, un quesito ti faccio. Ti ricordi che attacco antenna aveva il Black Jaguar? PL. Claudio, vedi, ero tu. No, Natali, è al contrario di quello che può avere, non mi ricordo mai le sigle, comunque non era PL, non era BNC, era, come si chiama quell'attacco, Marco? Quella frettatura fine. Ma l'RZ1 il Black Jaguar, quello a vite ci aveva. TNC, Tango, November, Charlie, non BNC, TNC, sì, aveva la filettatura più stretta. E avevo comprato subito l'adattatore da Ofusaro GBC, adesso non mi ricordo. E se non sbaglio, in dotazione ti davano una custodietta in finta pelle che davanti aveva la plastica trasparente e vedevi tutto, i tasti e lo schermo. Mi sbaglio, Claudio? No, c'era così. Così ce l'ho io ancora, ancora custodia, che purtroppo prima era trasparente, adesso è diventata giallina. Ce l'ho, è nuovo il mio, solo che non accende più. Bello era, cioè bello proprio, mi piaceva anche, potevi mettere i limiti di scanner, cioè tu li dicevi, voglio fare da 145 a 146, ti mettevi il limite con la freccina, limite inferiore, limite superiore, e lui ti faceva solo quella fetta che volevi tu, una fetta ristretta a me, anche di pochi kilohertz. Bello era, comunque a me piaceva più senza custodia perché vedevi meglio il display, i tasti. Ah, io mi ricordo, all'epoca era così pazzo che me lo portavo assieme, no? Ogni tanto sentivo il BDB in mezzo alla folla. Una volta vado in Piazza Italia con un amico e si avvicina a questo tossico con la barba. Oh ragazzi, fumo ne avete? E noi no. Ne volete fumo allora? E parte la selettiva, questo diventa bianco, e dice, allontanando si dice, cazzo! Ehi, e poi ci vedevamo allora, la selettiva. bella quella, dice, cazzo! Due in aggiunto proprio, due sbirri, so che. Ecco, questo come ha sentito la selettiva, ha sgranato gli occhi, e subito senza dire niente, cazzo, se n'è andato, mi si è allontanato, si è detto, cazzo! La follia mia è che proprio me lo portavo in giro, in mezzo alla folla nei negozi, e sentivo la selettiva, penso se mi avesse beccato, che di dovere. Me l'avrebbe messo a sedere, ma non dalla parte dell'antenna, dalla parte del fondo. Con la ghiaia per farti più male. Eia. Black già, oh, leggendario era. Tutti quelli che ce l'hanno avuto ne parlano bene, anche sui forum. Sì, bravo, anche lo c'aveva anche la RZ1 che faceva da ricevitore e da radio. Però quando è morto non so se l'aveva gelato, se l'aveva. Diceva questo qua, che parlavamo da Piratoni, quando ero a Porto Torres, poi vabbè 440, poi c'aveva un altro baracchino grande, mi sembra che era proprio un Galaxy, adesso non mi ricordo se era un Galaxy, cioè ne aveva il roba a carro, ne aveva, sì, no, quello era l'attacco, sì, TNC, bravo TNC, mi confondo sempre con quello del Vox, no? Sì, PNC che ce l'ho ancora, ho anche l'attacco io di quello, gli attacchi ce li ho quasi tutti io, quasi tutti ce li ho riportati, quindi non ci sono problemi. Io quello PNC l'avevo comprato a Minchione, da minchia come l'avevo comprato, che ero a Clavaniere da un giorno in officina da Marco, l'avevo comprato lì, e ce l'ho ancora, fate un conto, però non mi serve perché non ci ho portati lì con attacchi di quel genere, capito Marco? Insomma, se riesco a metterlo a posto quello giù, un buon angolo, però già avessi tutto. Riceve tutto ma non riceve nulla, perché oramai sono tutti in digitale, anzi no, in tetra. E quelli non li becchi. Allora, notizia, questo ARDV1 entro breve sarà dotato di ricezione tetra. Il problema è che il tetra in chiaro lo puoi capire, ma il tetra criptato, come quello che usa le forze dell'ordine, non lo sentirai mai, non c'è modo, finché in chiaro, ma nessuno lo userà in chiaro, forse vigile il fuoco in chiaro, loro non è che abbiano troppo da nascondere, però forse l'ordine lo useranno criptato sicuramente, sì, bene. E io però non mi ricordo da chi l'ho comprato questo Black Jaguar, presumo da Mario, ma non me ne ricordo più, è passato troppo tempo. Sì, io non lo ricordo. No, qui avevo preso la R3000, dall'R3000 l'ho passato al coso, al quello della Iconbase 7, questo si chiama quella radio blu, vabbè, che sembra un HF, me l'avevo venduta e il ricevitore ne ho avuto quando appunto potevo ricevere, dai, poi quando ho iniziato a trasmettere, allora i ricevitori li ho venduti, mi sono comprato gli HF, tutto qua, capito? Raga, io mi stacco, dai, che vado a portare il cagnone, che sono già le 7:30, così me lo tolgo a mezzo alle balle. Se mi trattenete ci sentiamo un quarto d'ora, 20 minuti e sono veramente qua, ok? Eia, Natali, ti volevo dire, l'RZ1, no? Me lo ricordo, sai che ce l'aveva anche della Croce Blu? Quello bacino, Corazzuzza. Eia, lo so. Solo che una volta ha fatto una brutta figura, perché in sede è andato a farti ascoltare qualcosa e non prendeva nulla. Sicuramente ho saldato male un piede, insomma, o si è rovinato l'impianto d'antenna, sai, qualche spinottino, non dava nulla, cioè non stanno parlando. E io li facevo sentire la portatile che stavano parlando. No, ma no, non è quello che... quello, no, no, è quello, stessa frequenza. Sicuramente non... mi si era staccato qualche filettino, capito? Qualcuno del baracchino ricordava che l'RZ1 trasmetteva. Io gli ho detto, noni, è un ricevitore. L'ho visto da Mario, ricevitore RZ1, praticamente un autoradio. Ah, non si vedeva nulla, sembrava proprio un autoradio. E passava anche l'antennino autoradio mi per ricevere tutto. Quello era quello all'epoca. Che mi ricordo sulla SVL, no, c'era scritto impiantare e detenere nella propria abitazione. Ma quello sembrava un autoradio e non te lo sgamavano mai. E infatti. Anzi, meno male che hanno cambiato le cose. Adesso non c'è nessuna regola. Cioè dicono, è libero, cioè è libera l'attività di solo ascolto della banda datoriale. Basta, non dice nessuna modalità. Né a casa, né coso. Per fortuna. E a dire il vero, una volta era successa una cosettina, una fesseria, dai, e io avevo il ricevitore in macchina tanti anni fa, primi anni 90, e avevo l'SVL appressomi, e l'ufficiale aveva letto chiaramente dietro impiantare e detenere nella propria abitazione, però non mi ha detto niente, lo sai, ma ha controllato la SWL, ha letto dietro, ma non mi ha detto niente, però volendo me lo poteva anche sequestrare, perché era fuori di casa. Infatti tu non è che possi portarlo fuori, capito? Magari sentono cose che non devono sentire l'altra gente. se lo senti tu ti fai gli affari tuoi è un conto. Certo, certo, e sempre deve essere, dice, casualmente ed involontariamente captate, capito? Non che uno caccia la memoria. E infatti, se casualmente si dovesse fermare lì facendo lo scanner... quello viaggia, fa le frequenze. A parte che se uno ti dicesse, no, devi usare esclusivamente scanner, cioè devi usare solo scanner che ascoltano esclusivamente le bande amatoriali, bisogna rispondere, non esistono scanner che ricevono solo le bande amatoriali, non esistono, assolutamente, sono tutti a banda larga. A banda là, sono dovrebbe essere 144, 146, 430, 438 con l'esclusione dei 434. È un apparecchio simile, non esiste, sono tutti a banda larga. Sì, infatti, anzi se non sono a banda larga li allargano. E io, dopo quando rientra Claudio vi dico, no, vi do un'informazione aggiuntiva. Incappa. Ma quei tetra non si possono buscare? No. Cioè anche se, ma gli apparecchi no, li vendono solo alle forze, ai diretti interessati, non li danno ai civili. No, ma poi è un casino usarli anche lì, perché hanno codici, cioè puoi ascoltare addirittura solo se hai il codice apposito, tutto, è come il digitale, è un casino, Natalia, è un casino. E infatti noi, se tu dici come avete fatto a programmare il digitale, quegli apparati là, noi non li abbiamo programmati, ce li ha programmati il venditore. Ricordati, i venditori sono delle troie, per soldi ti fanno qualsiasi cosa e ce l'ha dati belli e pronti per parlarci, per usarli, capisci? Se no io non li avrei saputi programmare quelli. Perché sono pure difficili da programmare, così? Io ho visto il programma, ci sono un sacco di voci che io non conosco, ci sono un sacco di impostazioni sconosciute, io posso sapere cos'è lo shift, cos'è il subtono, cos'è la modulazione wide and narrow, no, larga, stretta, più qualche altra cosa del tile tone eliminator, no, vabbè, cose che c'ha il baufeng, ma quella è tutta roba, mi sono messo una mano in testa. Io gliel'ho fatto vedere mia Claudio l'apparato, gli ho mandato una foto, però l'ho coperto con un pezzo di carta il nome e il modello. Che bastardo. Infatti me l'ha detto, guarda, ecco, questo il display. Ho detto no, non è un display, è nome, marca, modello. Se no è troppo facile, no? Adesso me lo compro pure io. Comunque posso darvi un indizio, è cinese, di origine cinese, fatto in Cina, non è roba italiana. Ma come hai fatto tu a fartelo programmare se arriva da lì? No, è fatto in Cina ma è venduto anche in Italia. Io al venditore gli ho detto, mettilo in condizioni di parlare tra due persone, A e B, solo due persone. E lui me l'ha fatto. Capito? Tra l'altro i venditori sono delle meretrici, basta che paghi e ti fanno tutto quello che vuoi. E non ti perdi nulla, Natalie, non ti perdi nulla. È la stessa cosa di parlare in digitale, io ho preso solo per sperimentazione, poi ce lo posso anche buttare, posso venderlo, regalarlo. Sai cosa interessa più che altro? Provare l'apparecchio quando è al limite, cioè tu vai in digitale, in analogico, no? Perché è anche analogico. Aspetti a trovare un segnale basso, no? Cioè cerchi proprio la posizione bassa dell'altra persona, che arrivi in Santiago 1, che proprio arrivi a filo di capibilità, non di comprensibilità, voglio dire. Poi passi in digitale, magari sulla stessa frequenza, o una, insomma, vicina, in modo da... E fai la prova comparativa tra analogico e digitale. Mentre, che ne so, in analogico lo senti tutto col fruscio sotto, no? Tutto... Qui invece senti solo la voce, un po' metallica, no? Un po' robotica sembra, leggermente. Ecco, una cosa che, di cui non ti rendi conto è della distanza, perché tu non capisci se è uno vicino o lontano oppure se è su casa sua, ne, arriva sempre uguale la voce, capito? Non hai smitter lì. Ma quei vicini urbani mi sembra che hanno quelli sempre vecchi, boh. No, gliel'ho visto io in macchina. Mamma mia, un apparato splendido, tutto digitale, con display digitale, con pieno di tasti illuminati. E si vede che roba nuova, non è il vecchiume che avevano prima, no? Oh, gliel'ho visto in via Lunesole dove che c'era un incidente, io mi sono avvicinato alla macchina, così facevo finta niente, ho allungato l'occhio. Mamma mia, tutto illuminato era. Bello, bello. Una volta avevano degli scaccioni, io ti parlo di anni 80, avevano proprio degli scaccioni. Scaccioni sempre professionali, non giocattoli. E ce li avevano come quelli dei carabinieri prima. I primi che hanno avuto UHF erano come quelli dei carabinieri, uguali. Ma gli OTE, io mi ricordo una marca, era parecchio, perché erano OTE. Non me la ricordo la marca. Comunque c'avevano quei portatili con l'antennino piccolo, lunghi erano. Dipende dal corpo. Per esempio la polizia, no, li vedevi alle manifestazioni, alla cavalcata, avevano questi portatiloni, no, un po' lunghi, un po' grandetti. Quelli sulla loro banda, no, già lo sai. Avevano queste antenne in gomma, non troppo corte, perché lì sono intorno ai 70, no, già lo sai. Per quanto caricata non può essere cortissima l'antenna. Vabbè, questo vari anni fa, insomma, un bel po' di anni fa, adesso sanno il tetra, sembrano dei cellulari, lo sai, i portatili, sembrano dei cellulari, i telefoni, quelli a tasti. Ecco, ormai col digitale le radio assomigliano sempre di più a dei cellulari e non a delle radio. Io lo so, però i vigili urbani mi sembra che hanno sempre quelli vecchi, solo che deve essere trasmettono anche in digitale, perché sono spariti. No, me l'hanno detto, tetra, sono tutti in tetra. Il tetra serve per comunicazioni interforze, cioè possono parlare da vigili urbani a polizia, a carabinieri, a vigili del fuoco, tutti interconnessi, mi capito? E quello è lo scopo del tetra. Ah, per fare... io ho capito. Sì, proprio un sistema interforze. Non conosco i dettagli tecnici, ma insomma, è complesso come sistema. A parte una cosa, Natalia, come sistema è costosissimo, almeno quello che dicono tutti sui phone, è costosissimo. I costi di manutenzione sono molto alti. Poi devi mettere una marea di ponti ripetitori, perché è come il cellulare, se no perde il segnale. Invece hanno detto in DMR, no, o roba del genere, sarebbe stato molto meglio. Pochi ponti, un sistema economico da insomma, manutenzione economica, va bene. Hanno voluto il tetra, adesso se lo grattano. Se lo grattano, magari è la legge che gli impone di avere quelli. Vabbè, lo Stato ha scelto quello, ma un DMR sempre crittato, no? Sarebbe stato molto più leggero, pochi ponti, manutenzione proprio bassissima, insomma, vabbè. Vabbè, contenti loro, finché lo Stato ne ha i soldi per pagarlo, poi lasceranno tutto lo swatch. Yeah. E ricordati, quando c'è un terremoto, una calamità naturale, come manca l'energia elettrica, tutte quelle cose, anche quelle cose si incasinano, capito? Le radio sono sempre quelle, cioè una radio deve restare radio, no? che diventa mezza rete cellulare. Quella è come una rete cellulare, quando c'è una calamità naturale salta tutto, anche lì, mi raccredi, e devono ricorrere alle radio vecchie, alle radio classiche, radio però. E allora, e te credo, e infatti ci sono i radioamatori che soppiscono ai difetti di questi qua. E infatti i radioamatori, quando c'è una calamità, collaborano con le radio vere, HF anche, no, mi pare che sia 7100 la frequenza d'emergenza, 7100, c'è 7,1 MHz, no, a metà dei 40.000, per l'HF, poi vabbè, insomma, e così, insomma, collaborano anche quando saltano altre reti, siamo capiti. Sì, infatti. Quelli lì, no, ma in tutte le frequenze c'è quella di emergenza, capito? Sì, mi pare anche 20, 80 metri o giù di lì, dai. Il band plan non ce l'ho qui, però visto che c'è una stellina, no, nel band plan che ho io, che è tutto a colori, c'è la stellina e poi c'è riportato sotto frequenza di emergenza, no? Ehi, aia. Bene, bene, aspettiamo con il Claudio. Oggi mangiamo tardi, mamma mia, palle però. Questo sistema di vita però non passerà più se io continuo a fare questi orari. E purtroppo mamma fa così, capito? Siccome ci deve venire i giri scorsi. Insomma, la roba è pronta a tardi. Alle 8, pranzo alle 8, una cosa ridicola, bisognerebbe mangiare alle 2, 2, 2 e mezza, sarebbe già passabile, la cena alle 9, come facevamo quando eravamo normali, capito, la cena alle 9, non troppo tardi e non troppo presto, è una cosa perfetta, 8 e mezza, 9, almeno scommetto che prendere il sonno meglio, in modo naturale, non devo invece pigliare qualcosa per dormire, capito? È chiaro che uno mangiando a mezzanotte, sai che il cuore batte più veloce per digerire, insomma, non ti rilassi, ti rilassi alle 3, alle 4 di notte, è chiaro, no? Vabbè, però qua mi sa che voglia migliorare, non ce n'è, e allora me ne frego. Me ne frego, ma ci siano i pasticci. Certo, tanto poi sai cos'è, lì sa cucinare, eccetera. Più di me, insomma, io faccio cose molto semplici, la pasta con un sugo, sono cose semplici, lì magari fa qualcosa di più buono. Oh, nulla mi impedisce di scaldarmi la roba e mangiarmela prima, però sai, se mangio non parlo al baracchino, conviene mangiare dopo le 8 quando magari molti chiudono, va bene, cioè va male ma va bene ma va male. Cavagava. Adesso c'ho quei Baofeng e me li tiro a culo. Guarda che quelle sono radio valide, tu hai detto che le volevi usare per parlare con la 50, no? Quando eri a distanza. Guarda Natalia, che io probabilmente entro, non dico entro breve, ma metà mese, fine mese voglio ordinare dalla Cina un antennino UHF lungo 14 cm con base magnetica, non quello da 50 che ho io, da 14 cm con base magnetica a 3 cm, e il filo è sottile 1000, RG174. Tu mi avevi detto che era troppo lunga, quella invece piccola, cioè che c'è una spiralina, vari giri di spirale, a metà dovrebbe essere perfetta per te, che hai detto che quella da 50 era troppo lunga, no? E questa è sottile e piccolina, la vediamo alla pena. Basta pochi metri di distanza, già 3-4 metri non avevi più. Guarda, ce ne sono due modelli, uno con l'attacco SMA reverse, praticamente ha l'attacco SMA femmina, e l'altro è con l'SMA maschio. Diciamo che sono utili tutti e due in base alle circostanze, costano 6 euro e spiccioli, tipo 6, meno di circa 6,50 euro l'uno, dai, tipo 6,38, 6,40, no? E quindi sarebbe il caso di prenderti almeno uno, forse se uno è buono se ne prende anche un altro, capito? Proprio perché se vuoi discrezione, capito? Ehi, ma ti stavo dicendo, ma bisogna avere se la base magnetica attacca bene alla macchina mia. Ma anche se acceleri, una salita. L'antennino è talmente corto che non fa cosa aerodinamica. Guarda, io ho quella da 50 centimetri circa, con la base magnetica, ci sono andato a 100 orari, ho raggiunto i 100, sì 100, fai 100. Ma io sono sicuro che andando oltre, perché è sottile, l'antennino è sottile, e quindi l'aria li passa attraverso. E in più quelle da 14 cm, ha la stessa basetta della mia, però è lungo 14 cm. Quello puoi andare sia anche a 130, non si stacca. Ma anche se si stacca non cade mica a terra, rimane attaccato al cavetto che fa entrare nella portiera o dal vetro, tutto lì. E infatti. Andrà bene Meda. Io me lo volevo mettere in macchina, capito? Certo, tu ti porti il ricevitore, no? L'adattatore se necessario. E l'antenna è del ricevitore, giustamente. Ufficialmente. Poi raggiungi una bella postazione. Tac, tac, ed ecco pronto, no? Il bau bau, come lo vuoi chiamare? Allora, c'ho il microfono, c'ho la batteria lunga, quella che dura chissà quanto. Lei, quella è bella, quella la volevo prendere anch'io per quello che ho io. Anche se poi, sai così, io non lo uso per lavoro, né come... Lo tocco una volta al mese, giusto per accenderlo, mi per caricare la batteria. Vabbè. Bene. Comunque anche del tuo dovrebbe esistere il battery eliminator. Capito? Quando fra 10 anni, 5 anni, 10 anni non esisterà più la batteria, tu gli attacchi il battery eliminator e lo puoi usare a casa o in macchina. Te capì? Yes, sir. Qua costa pochissimo. Battery eliminator magari, sai com'è, in Italia te lo fanno pagare 12 euro più la spedizione. Se lo compri dalla Cina, no? Da quei negozi poco noti. Io l'avevo pagato quello, aspetta, l'avevo pagato uno tipo 3,65 euro, capito? Ti arriva dopo un mese e mezzo, ma ti arriva e funziona. Cinesi, guarda, prima dei cinesi un portatile loro pagava in occhio della testa, capito? Chiaegiu, quello che è standard, non ne parliamo, i prezzi che avevano. È stata una rivoluzione vera e propria, a partire dall'UV3R, quello con display singolo, no? Con una sola frequenza. È stata una vera e propria rivoluzione. Infatti. E poi io ne ho bisogno di uno solo, di portatile, perché già lo so io, e anche tu lo sai. Chi dà rispondirà in oggi. E io. 1, 2, 3, 4, 5. Bene. Sto parlando troppo e mi manca l'aria, dai. E stasera non è entrato nessuno, né Franco, né Giulio, né Valerio, niente. No, stavo parlando sempre con Claudio io. Quando sono entrato c'era Claudio e dice che non ha sentito nessuno. Eia. Comunque vedi che a parlare ci si scalda, prima avevo un po' di freddo, adesso parlando ci si scalda. Bene. E di nuovo così sta facendo l'alimentatore. Adesso lo fa sentire. Senti la ventola, si ferma proprio. Questa ventola non ce la fa più, deve avere quei carboncini consumati, quelle cose magnetiche. È da cambiare. Gliela porto, insomma, non lo so chi vende ventole di computer o quel tipo, forse da un negozio di computer. Io gliela porto, dico, mi serve questa. Se l'hanno bene, se no pazienza. Io ne ho ventole, mi. bisogna vedere il diametro, e questo basta staccarla. Spero non sia saldata, che ci sia uno spinottino. Comunque questo alimentatore non scalda, e anche se attacchi qualcosa che assorbe 10 ampere non scalda, proprio rimane freddo, gelido, quindi la ventola diciamo che è anche superflua. Infatti, deve essere... tu prova a vedere il diametro che ha. Veglia, una volta l'ho aperto e ho pulito dentro che c'era polvere un po' e l'ho vista dentro, dovrei smontarla. Togliela proprio, dai, così per avere il campione, mi. Magari ce l'ho io e la schiaffi dentro. Veglia. Intanto credo che siano standard, dai, non sarà roba, ci sarà in varie misure predefinite, no? E comunque devo ancora cannibalizzare un computer, devo smontare tutto quello che si può smontare, ventole comprese. Capace che riesca a sostituirla io, dai. Guarda se c'è la scheda video PCI Express in quel computer che hai tu. Che se no io ho la scheda video che è un giocattolo questo. E cos'è PCI Express? Il tipo di attacco, il bus di velocità della scheda madre? Quelle che sono staccate dalla scheda madre sarebbero. Che non sono quelle della scheda madre, si attaccano in uno slot. Lo so, quello fin lì ci arrivo, ma volevo dire, questo che hai detto tu Express, è il tipo di attacco, la forma è l'attacco o la velocità del bus della scheda madre? La velocità di scambio di dati in megahertz, me. No, il tipo d'attacco è PCI Express, si chiama. Ma è recente o anche datato? Anche datato, io ce l'avevo la PCI Express chissà quanti anni fa, con la ventola, il gas, via la Bogoveta, chissà che fine ha fatto. E io ce l'ho quella del computer vecchio, ma è bruciata, perché ho provato ad attaccarla, c'è lo stesso attacco, no? Però i siani, la maglietta di l'Inter. Ah, vuoi una magna un PI? Adesso ti tiro una fucilata alla direttiva. È il primo voto a smontanire. Bene. Allora, ci siete tutti e due, sì? Yes, sir. Claudio? Sì, perché ci devi fare la pennacchia. No. Allora, su un noto forum, un poliziotto ha trascritto quello che loro hanno sul breviario. Fino a 2 anni fa c'era scritto che se trovavano qualcuno in possesso di uno scanner, anche senza frequenze proibite, dovevano sequestrarlo, lo sai? Dovevano sequestrarlo perché poteva essere potenzialmente usato per ascoltare appunto le frequenze loro. Capito? Fanno anche i sequestri alle intenzioni, no? Capito? Come dire, processo alle intenzioni. Sono stati informati tutti i corpi di polizia, sono stati informati dell'errore, perché noi dal ministero non abbiamo limiti, cioè dice è libero l'ascolto delle banche datoriali, capito? Per cui in questo breviario dal 2000 e... da quest'anno, insomma, questo del 2017 verrà corretto e verrà eliminata questa voce. Se no, fino all'anno scorso loro leggevano il breviario e dicevano chi ha lo scanner va sequestrato, e te lo sequestravano se leggevano il breviario. Certo, a me, io ho incontrato posti di blocco, hanno chiesto solo questa che antenna è per ricevere radiatori, ma no, manco ho chiesto niente, solo quello. Però c'era questa voce nel breviario, capito? Perché potenzialmente, cioè in teoria, potresti ascoltare le bande loro. Però queste stronzate che scrivono loro, no? Vabbè, comunque così c'era scritto, capito? Loro fanno i processi alle intenzioni, cioè tu con le mani potresti strozzare un uomo, no? Potenzialmente potresti strozzare un uomo, allora ti mettono in galera perché hai le mani e potresti strozzare un uomo in futuro. E che cazzo di discorsi sono? Sì, ma in fin dei conti chi è che ha vinto? Cioè cosa gli hanno fatto a questo? Claudio, non hai capito niente, era un poliziotto che ha messo a disposizione il suo libretto e ha trascritto questa voce che loro dovevano sequestrare eventuali scanner trovati, perché potenzialmente possono ricevere frequenze loro, frequenze proibite. Invece, siccome molti radioamatori e altri hanno contattato le polizie, no, di questo errore, perché lo scanner si può portare anche a prezzo, non c'è alcun problema, correggeranno da quest'anno, correggeranno questo libretto, questo breviario, levando quella voce lì. Ah, ecco, adesso sono stato più attento, perdonami, ma ti stavo ascoltando e purtroppo ci ho messo il piede nella merda e quindi mi stavo ponendo le scarpe. Porta fortuna, eh. Ogni volta che vado in sto cazzo di prato qua, vabbè, al buio. Senti, io che ho piano, ma non mi hanno ascoltato a casa, ma adesso al corpo, non me le stavo togliendo. Adesso le ho lavate, le ho messe fuori nel poggiorno. E prendi tata lì che me la vuole mano. Eia. Ehi, capito, Mazzalì? Quello è un regolamento inventato da loro, era. Secondo il cervello loro, no, noi dipendiamo dal Ministero dello Sviluppo Economico, che dice che possiamo ascoltare bande datoriali, non dice regolamenti di altro tipo. E loro su questo libretto, no, quando non sanno cosa fare, leggono il libretto, no, e ci sono piccole, e avevano scritto questa porcheria qua, che dovevano sequestrare lo scanner perché potenzialmente poteva ricevere frequenze proibite, no, le frequenze loro, per dire. E lo leveranno da quest'anno l'articolo, lo leveranno dai nuovi libretti che verranno distribuiti. Ma se la polizia comincia a farci la legge a contusoio con libretti e librettini, non so dove arriviamo noi. Si chiama Notte VP450. Cosa? Quelli che sono andati via da poco. Ma di cosa stai parlando? Già non hai capito cosa ti ho detto io, sì. Tutto ho capito io. No, cos'è il VP450? Notte. Notte. Ma cos'è questo Notte VP450? Non è Notte, no. Oscar Tango Echo. Ah, OTE, sì, quello dicevo io, OTE, sì. Mi ricordo che sbirciando da fuori anni fa vedevo questo OTE. Poi avevo sentito, mi pare, però potrei sbagliarmi, che la OTE aveva fallito. Non lo so, ci vorrebbe qualcuno che ne sa di più. E poi non so altro. Ah, quel modello lì era, così è, UHF. Ehi. E adesso chissà cosa metto, poi c'hanno quel computerino, hai visto, ormai mettono i dati anche adesso di una targa e ti dicono già tutto, se si è assicurato, chi è l'intestatario, il progresso. Caspita, non si può più fare niente che... E c'è un bel di gente lì che gira senza TAR, senza assicurazione. Io mi chiedo come facciano, non lo sanno cosa succede. Sono almeno 1.000 euro di multa, c'è questo del mezzo, poi sicuramente altre pene accessorie. Mi hai chiamato tramite il sistema Tetra. Sì, perché il Tetra, insomma, come i digitali, no, hanno voce e dati anche, dati. Insomma, sì, quel sistema, però troppo pesante, macchinoso, caro, molto caro. Lo so. Ovviamente no, potevano scegliere un digitale DMR, no, a uso professionale, no, statale. No, hanno scelto la cosa più costosa. Proprio sono dei geni, questi che abbiamo al governo. Eccomi qua, vai. E anche io ci è andata. Va bene. Eia. Quindi capito, stavo dicendo a Natalino, che se poliziotti o carabinieri siano, cominciano a farci le leggi private scritte sui manualetti, leggi poi inesistenti, andiamo bene, capito? Andiamo bene, invece meno male che pare che lo correggeranno, speriamo. Comunque, ripeto, con i controlli con i controlli che ho avuto non ho mai detto niente, certi non hanno nemmeno chiesto niente, nemmeno che cos'era l'antenna, non potevano nulla. Uno mi ha chiesto solo, è andato a Platamona, e questa antenna cosa serve? Ho detto, ricevere radiamatori, non hanno controllato né scanner né niente. Oh, oh, oh. Dai, io come ho tratto un po' col baracchino, così chiudiamo in bellezza. Spento già tutto e ciccia. Io, ma è così. Cioè, questa gente è convinta che le leggi le fanno loro. Capito? Questa gente è convinta che le leggi le fanno loro. Invece non funziona così. Eia. Il modo di dire è il processo alle intenzioni, no? Cioè, tu con la macchina in teoria potresti investire qualcuno e quindi te la sequestrano. Sono discorsi del cazzo. Giusto nei libretti di quelli là li potevano mettere, ma regolamenti del genere. Però secondo loro, ho capito, c'hanno sempre ragione. Ehi, come i matti. Infatti, hai detto bene, come te i matti. Sì, perché tanto, sai, il cittadino non conta niente, il cittadino è un suddito, quindi loro vengono, te lo sequestrano e poi gli assilabina in luce il cittadino, capito? Deve fare la lettera all'avvocato per il dissequestro del bene. Per carità, lasciamo perdere. Ma io le lascio sempre incantare, me lo fu tassare. Tanto poi alla fin fine non hanno neanche ragione, capito? Quindi a cosa serve? A niente. Beh, non sempre ragione. Oh, l'hai visto quello che c'era uno che non so, aveva sparato in aria e alla gomma di rapinatori. Aveva sparato in aria durante una rapina e poi alla gomma dei rapinatori. Lì ce l'hanno denunciato per esplosioni pericolose. Ah, si può essere più imbecilli. Quello si è dovuto difendere. E lo denunci per si chiama accensione di esplosioni pericolose o roba del genere. Capito? Come quando usi i petardoni. Cazzo di auro. Sono tutti i mezzi esauriti, Marco. Per me sono esauriti. Di tutti i rigori se ne intendi. E quello c'aveva il portodarmio, quello che è, capito? Esplosioni pericolose, quindi non poteva difendersi. Allora perché gli danno il portodarma? Perché gli danno i porti d'arma se uno non si può difendere quando necessario? Sono tutti esauriti, sì, per carità. Poi il Ministero dell'Interno, non te ne dico niente. Lasciamo perdere. Se tu ascoltassi quello che dice il giudice Mori, no? Su certe leggi porcate, cose assurde. Vabbè, è un discorso troppo lungo, dai. Vabbè, sono cose assurde che però secondo loro debbono essere così, capito? E poi alla fine ci deve male la gente, perché non è che uno si può alzare la mattina e fare la legge a conto suo. Venga. Adesso per i vigili urbani, no, per non dargli il manganello vero e proprio, no? Hanno inventato una specie di manganello giocattolo per i vigili urbani. C'è un manganellino talmente leggero, sembra uno stecchino, uno stecco di plastica, no? E quasi l'hanno al banco di prova, no, al banco di prova che dovrebbe provare le armi, l'hanno catalogato come dire, non arma, come dire, oggetto che non è atto a offendere, mentre il manganello è un oggetto atto a offendere, è quasi un'arma, no, quello è non, praticamente una specie di manganellino, se quelli estraibili, no, e dai il polso, il corpo col polso e si allunga, no, è una specie di manganello giocattolo che va bene giusto per sculacciare i bambini, e cosa glielo danno a fare? Se lo vedi ti metti a ridere. Guarda che è quello di ferro. E se ti ricudono un colpo li intendi i rodolori, raga misì. Noni, quello che è stato omologato, che non è strumento atto a offendere, è fatto di plastica e fibra di vetro. Non è quello in metallo. Quello in metallo ce l'ho io, ma guai ce lo porto fuori casa. Quello è di. Proprio l'hanno fatto per essere un oggetto qualunque. Ma è un giocattolo, in realtà, devi vederlo. Ha un nome particolare, e c'è sia bianco che nero. Una cosa da ridere, mi. È come dargli un ramoscello ai vigili urbani per difendersi. Un ramoscello, mi, da un albero. Che cosa serve a frustare le chiappe ai bambini, boh. Adesso io vado e mi compro uno di quei tonfa che ci avevamo in palestra. E sono il legno duro quelli, se ti ricordo non colpo di chi se guai. E poi io lo so usare pure. Abbiamo parlato in due, ho detto non è come quello che c'ha la polizia, quindi. No, no. Allora, non è né il manganello vero e proprio e né il bastone sensibile come quello del tuo Natalino, che è di ferro, no? Ma quello di ferro fa male veramente, quella è un'arma propria, credo. Arma propria, perché cioè non ha nessun altro scopo se non quello di arrecare offesa alla persona. Poi c'è questo fatto per i vigili urbani, è una specie di mezzo giocattolo mio, una bastone sfraibile mezzo giocattolo, è fatto in plastica e fibra di vetro, è come che tu gli dessi una canna da pesca mi fa difendersi, di quelle da 1,5 metri, cioè te lo tirano alle chiappe e cosa li fai? Ecco, se te lo tirano alle chiappe allora il problema è diverso. La pistola che io non la possono avere i vigili urbani devono avere il 9 e corto, quello che c'erano i carabinieri un tempo, quando c'erano quelle pistolette modello 34, qua. Quella che ho io, 9x21, non la possono avere. Ehi, ti ricordi che un vigile urbano si è sparato al piede con la 9 e corto? Ci manca solo il via 9x21, così gli scappa il colpo e si ammazzano tra di loro. Oh, ricordami la mia, quella che ho io, Marco, qual è? E poi tu mi avevi detto la 9x21, qual è, che modello è, la 98 o la 84? Ah, ti ho fatto vedere il Natalino, va, ne ha la bugà. Ma te la ricordi tu, Natale, la mia è corta, 9x21 corta. Boh. La mia è 9x21 full, è militare quella che ho io, anzi è più potente quella dei militari, quella che ho io, perché è più lungo la pallotto, la mia, del 9 parabellum, di 2 mm il vostro, quindi ci sta più polvere e più potente buru. Allora non dire la pallottola, di il bossolo è più lungo. No, aspetta Natali, comunque Claudio potrebbe avere una 98 con la canna lunga come la tua, insomma lunga proprio la tua, potrebbe essere anche una 98 compact che è sempre 9x21 ma la canna è leggermente più corta, può darsi. Natali, tu che l'hai vista, mi sta chiedendo Claudio, tu l'hai vista, qual è? Compact, quella lì è compact, non mi ricordavo il nome, 9x21 compact. Sì, è quella lì, è una 98 leggermente più corta perché è più comoda anche da destra, destra è più corta, sa? Sì, bella comunque. Avanti, porto la fotografia e ti la mando, Marco, perché Natalino gli avevo già mandato. Eia, sì, comunque, Natalino, te lo ricordi quel vigile urbano, mi pare, non so se in via l'Italia o dove, ci ha sparato al piede, stava tirando fuori la pistola e ci è sparato a Lubevi. Quella di ricoglione è poco. E infatti quello è negli uffici adesso, eh. È negli uffici. Non gli danno più pistola. Ma quando mai uno che ha il porto d'armi, cazzo, si spara al piede, adesso è proprio un babbeo, mi. O sai, nella concitazione magari l'hanno offeso, aggredito, quello estraendo, ha messo il dito. Ma cazzo, addirittura a tenere il colpo in canna, com'è possibile? Poi non è doppiazione quella, vabbè non lo so, vabbè se è l'84 9 corto è doppiazione, quello sì, se è la 70 o roba del genere no, è singolazione, bisogna armare il cane, insomma questo è riuscito a spararsi sul piede, come le barzellette del Far West. Sì, vabbè, col colpo in canna stava girando, però si è dimenticato che quelle pistole hanno la mezza monta e poi manda il tiro coito. Però secondo me questo ha premuto il grilletto, secondo me la premuto e straendo, all'ora della doppiazione, e se non avrebbe dovuto armare il cane e poi sparare. No, non lo so, bisogna chiederglielo a lui. Molta gente aveva il vizio di lasciare il cane armato perché gli veniva meglio a scarrellare, solo che non si è accorto che c'era il colpo in canna. Mamma mia, la cosa più pericolosa al mondo, colpo in canna e cane armato, roba da matti. Oppure era convinto di aver messo la sicura. Eia. E poi hai visto gli idioti, no? Quelli che non conoscono le armi bene. Tolgono il caricatore e dicono l'arma è scarica. No, quello bene. Guarda nella camera di cartucce, a vedere se c'è la cartuccia in canna. Eia. Il telefono in carica e dopo me la guardo. Dopo me la guardo. Capito, Natalino? Qualcuno aveva il caricatore e ce l'ha una scarica, no? Bisogna guardare nella camera di cartuccia. Perché molti lasciano il colpo lì, poi vanno a giocare col grilletto, boom, e ammazzano il parente. E allora prova a mettere il colpo in canna nella mia, che non è a sicura. Beh, sicure automatiche. Vabbè, però non ha la sicura manuale. Un carabiniere quando gliel'hanno data, ma adesso come faccio? Che non è sicura questa. Vabbè, ma la Glock dovrebbero conoscerla, no? C'ha sicure automatiche. A meno che non tiri volontariamente il grilletto, non spara. Vabbè. Dai che vado a vedere un attimo la foto, veloce. Ehi, a te, i reparti speciali non ce l'hanno la beretta, hanno la Glock. Hanno la Glock, sì. E allora? Però per usare quella lì bisogna che uno sia addestrato, se no si spara in piede. Sì, vabbè, meglio si spari a niente, raggiura. La mia è pericolosissima la pistola se uno non è addestrato. Oh, ma come mai? Ah sì, ma mi hai già spiegato. Mentre invece la mia ce l'ha la sicura. Ehi, anche quella che avevo prima io era tipo la beretta, però mille volte meglio della beretta. E c'aveva la sicura manuale, no? Ambidestra addirittura sul carrello. Invece quella che io c'ha tre sicure ma sono automatiche. Una volta che tu premi il primo grilletto hai tolto tutte le sicure. Ah, addirittura. Ehi, mica è l'occhia chissà. C'ha due grilletti la mia, no? Quando tu premi il primo grilletto stai togliendo tutte le sicure in quella pistola, è pronta a sparare. Asciughe, bisogna stare attenti allora. No, bisogna stare attenti prima che parta qualche colpo. Ciao Valerio, buonasera, grazie del messaggio. Buona cena anche a te. Pensavo di non arrivare al ghiero col baracchino piccolo piccolo, con la Lan 48 e l'MB più 5 mi senti lo stesso. Eugenio, se non da casa da casa è un casino. Capito? Io c'ho la posizione. Telefono, aspetta. Ebbè, siamo qui. Oh, una telefonata, però non ha risposto nessuno. Qualche maniaco è me. Sì, una 98 compact. Ma di solito non se ne vedono molte perché la gente la prende già lunga, no? Più lunga. Però sai, per chi vuole una cosa più corta e non vuole la 9 corto si prende quella lì. È bella lo stesso. A me piace, la 98 piace molto in acciaio inox satinato. 2000 euro di pistola. Se non mi gusta che se non mi ha tolto la parola alla bocca, anche a me piaceva. No, questa l'avevo presa da Pasquale insieme a Franco. La usavo, adesso non la sto usando più per andare al poligono, capito? Caspita, 2000 euro. Solo perché satina in inox, no, inox. Invece la Taurus fa una copia della beretta 98, però mi pare che sia cromata. Natali, niente ne sai. No. Taurus, mi pare brasiliana sia la Taurus, fa la copia della beretta, però mi pare che sia non satinata ma cromata. O una cosa. qualcosa del genere comunque. Ai ai ai, ma in fin dei conti poi le armi, no, preferito non, no. E così anche per questione di costi, caro, capito? Costi, costi, costi. E cosa costa? Oh Marco, ma è quindi lì, è quella lì, quella che stavi dicendo tu, e quindi... La 98 Compact, sì, sembra quella, sì, il rapporto altezza, sì, sembra quella, sì. Ti ricordi, sì, dai. Sì, sì, sì, sì, mi ricordo quel nome lì, però non mi ricordavo la serie, capito? 98, 98. Vedi la 70 che c'ho io. C'è Natalino, ha tradito l'Italia, se n'è andato con gli austriaci. C'ho anche la 70. Eia, Cesù, pensa che io quella lì l'avevo vista 30 anni fa e dopo 30 anni esiste sempre. Ma quale? Quella mia? No, Beretta 70, quella è Natalino, la cos'è? 75. Eia. Hai la passione Natalino, te che l'ho giunta, ma ce l'hai sempre avuta. Io ho il porto d'arma da ragazzo di 18 anni. Non lo sapevo. No, io l'ho preso alla grande, ma ti ripeto, uso sportivo perché andare a caccia non mi interessa, avere altre cose non mi interessa, e quindi ho preso quello lì. E boh, è un portolarmi a tutti gli effetti, però non mi piace andare a caccia, mi hai capito? Odio i cacciatori, io, che ammazzano gli animali. Giusto! Eia, pronto, avanti, cambio! Eia, quasi! Ma c'era Valerio, non lo sapevo che c'eri Valerio, non mi hanno detto niente! Eia, stavamo parlando di pistole! Oh Valerio, sono convinto che a te ti piace quella nuova pubblicità che hanno fatto! La patata Serenella! Serenella, la patata più bella! Porca, ma di tutto devo sentire io che... Anche a me quella mi piace. Al forno, al forno. Guarda che buonissima, buonissima. L'ho fatta stasera. Serenella, la patata più bella. Ma ti piace a te, Marco, la patata? Sì, anche se è Serenella, come la vuoi chiamare, è sempre buona. Beh, io l'ho sempre detto. Adesso infatti bisogna stare attenti, quando chiediamo la patata a qualcuno, diciamo, ma non è a Serenella? Eia, ascolta, nessuno di voi ha mai assaggiato quelle patate viola? Buona rete, Joyce. Quelle viola dentro e fuori, un viola scuro, buone sono. Sì, sì, sì, sono patate particolari, non so come, hanno un altro sistema di agricoltura, però sono molto buone. Mia moglie qualche volta le prende perché le vende uno che si mette lì vicino al Conti con la furgonetta, capito? Eia, ma di che sanno, che sapore hanno, di terra, più forte, più dolce, dimmelo tu. Leggermente più dolciastra, hanno il problema è che non assorbono olio. Che si rivelano di basso. Basso gioco. Buonasera. Ciao Marco. Se non va bene le chiamate con questo maracchino, l'ho mai detto nulla. 8 watt, 7 watt. Come l'ho te l'ho detto? Marco che sei più basso. Ma sei nel basso di non basso del radio, no? Basso di segnale. Ciao Madonna, che... aspetta, sta curando, vai. Sei un segnale di 7, o di 8, sarà da 9,5. È diverso, no? Avanti Marco, buonasera. Aia, ciao Franco. Stavo parlando di pistole, di patate, di Serenella, eccetera. Oh, stavo chiedendo a Claudio o a chiunque ci avevano assaggiato quelle patate viola, che sono viola dentro e fuori. E ha detto che sono buone, Claudio. Le ho viste in televisione, ho visto... ne stavano parlando in un programma. Beh, anda così. Dice che hanno sapore più forte, boh. Allora quelle sono, mi sa che sono le patate da fare da friggere, quelle lì, non da altre cose, quelle da friggere, che non si fanno, capito? Esatto, non assorbono olio, non si disfano, esatto, rimane sempre verde croccanti, ok? Ho commutato quello grande, bene Raffa. Adesso sei tu. Mi dai fastidio quando sei più basso. Vabbè, è giusto, non c'era nessuno, siamo io, Marco e Natalino, ogni tanto il baracchino bisogna anche usarlo, no? Noi posso stare sempre a manettone, no? Capito? Infatti l'avevo già spento, il 4.40 e il 4.30, e mi ho commutato l'Alan 48. Va bene, avanti Natalino, lo senti a Franco? Già lo sento, questo Franco, gatta, sempre brutti cendi, sazzi. E io quanto ti arrivo? Tu sei pazzo, tu sei 7, ne ho durati quasi 8. Sì, ciao Natalino. Io già devo protestare, sto ancora a protestare, c'è. Cosa ti posso dire? Guarda, sono entrato, sono salito qua per spegnere tutto, perché ce l'avevo acceso, perché devo andare a lavorare tra un po', tra 20 minuti. Così, e invece ho sentito la prima, adesso mi faccio qualche minuto modulando. Avanti, Natalino. Ciao, ben sentito Fra, va. Però se ti faccio a pezzi l'amico tuo. Fallo a pezzi. Vado da Miru. Capo che te lo saluto. Avanti Claudio. A Marco, aspetta, avanti Marco. Sì, va bene, sì, volevo far sapere che quelle patate viola, quando le trovo le prendo. Ma a me piacciono anche bollite, né? Bollite. Così, insalata, o mangiate bollite, mangiate così, anche senza sale, per sapere proprio il gusto che ha, senza friggere, roba del genere. E non assorbono olio, così è, Claudio, hai detto. Sì, sì, ha detto mia moglie, ma le usano anche al Mac quelle, stava in cenevaria, c'è mia figlia a casa, capito, perché rimangono croccanti, rimangono, non assorbono olio, non si disfano, non si sciolgono, capito, anche se tu la fai bollita a serenella, lei rimane sempre bella, non si disfa, invece molte patate si sciolgono e quando vai a tagliarle per condirle diventa un purè, capito? Queste rimangono molto più dure. No, patata viola, al Mac non hanno le patate viola, io sto dicendo quelle viola, non selenella, la patata si fa bella. Non hai capito, mi stava dicendo Ilaria che al Mac, no, usano quelle in coso, no? Quelle praticamente congelate, però hanno fatto la prova anche con le patate normali, ok, che c'hanno a fare per tagliarle eccetera, c'hanno un macchinario, e hanno preso anche quelle lì rosa e sono risultate le migliori. Oh, ma buono. Comunque guarda, almeno in America, no, Stati Uniti, io le ho viste non rosa ma viola, proprio viola scuro dentro e fuori, facevano anche impressione a vederle. Io faccio più battata, Ah, Fra, non hai visto la pubblicità di Nova? Patata serenella, la patata più bella. Ma non credo, è sempre la patata più bella. Vabbè, Franco, ci potete comprendimo. Serenella, serenella. Amica mia, la sorella, vai Natalina. A serenella. A Luca se mi arrivi da 60 anni. Cosa? Ma ne è battato. E allora? Guarda che... Ma prima quella roba lì era dei poveri. Oramai diventate dei ricchi. Atto, guarda, allora, Fra, adesso a parte gli scherzi, io da mamma quando faceva la minestra e patate per me era la cosa più buona, mi piaceva più del minestrone. Sai che tu hai agito a mia moglie di Vammira? No, infatti sempre che un gatto di minestrone, fammi un po' di minestra e patate, è la cosa più buona che c'è, io rimango appena l'ingaggio sopra me, ui, e me ne goro. Ecco, Luigi, è vero. Guarda, io quando mi ricordo che mio padre era un contadino che faceva, piantava patate, piantava di tutto, e già che siamo nel tema delle patate, che andava a vendere le patate, quasi quasi le regalava perché non gliele pagavano neanche, e avanti oggi oro è diventato un patate. E viene un sacco di tipi adesso, capito? Però quello che sta dicendo Marco sono, risultano le migliori. C'è questo ragazzo Marco, c'è, che si mette lì nel, nel più avanti dove abita Antonello, no? Lì al Conti, c'è una furgonetta, uno scudo bianco, capito? Tu vai e ce li ha quasi sempre, quelli lì viola, c'è quelle normali, quelle viola, c'è un sacco di roba perché tutta roba biologica, capito? Tutto bio, bio bio, Serenella bio, mamma mia! A parola è tutto biologico, magari è pieno di coloranti mi fa fare la viola. Marco, ha detto che la patata cambia anche il grilletto? Eh beh, una patata senza grilletto non è una patata. E non fa niente da giubilare a te, da dire, ma scusa, a volte prendo le patate col pelo. E lui mi ha detto, no, Serenella pelo non ne ha. Ma va il grilletto. Oh, ma di freddo, sai quelle radicette bianche che ogni tanto trovo? Ha detto, no, a me mi pare che c'è la patata vecchia. No, ha detto, è giovane, si chiama Serenella. La patata più bella. E infatti, ho detto, quante volte avevi l'orgoglio bianco? Bella patata. Adesso va di moda la patata bella rosata, capito? Vai a vedere il film porno anni 70, lì c'era pelo, adesso non c'era più, tutti i film porno sono tutti rasati, sembrano dei polli rasati. Adesso ho capito perché stanno vendendo il pelo a patata. Eh certo, no, ormai la patata deve essere liscia. Belle mi sono queste che sto comprando io, belle, lisce, lisce, lisce, patate novelle. Comunque, don Claudio, se volete passare di grilletto dovete venire a Natalino, eh? Grilletti Natalino lui. E a me ha giù quello grilletto, se è una giuna e boh, Natalino la desi, perché lui è appassionato, lui è un coso, un fuciliere. Ma quello è un altro tipo di grilletto. A me tutti i tipi di grilletto piacciono. Ma con le cartucce o senza cartucce? Anche senza cartucce. Mamma mia, come sto... Io, parla chiaro, Natalì, cos'è il grilletto che voleva dire Franco? Dillo. Il grilletto, capitina, du furba, va. Dillo, dillo col nome anatomico. Il siciliano si chiama Osticchiupacchio. E non rompere i gamagigi, Marco, capito mi hai, eh? Ma non l'hai visto a Montalbano, in Altera Rimani, o Natalì? Le lacrime me ne scendevano, le lacrime. Cazzo, me lo sono perso, gatta, lo sapevo che c'era, però me lo sono perso. Mia moglie non me ne ha fatto guardare. Le lacrime, che dice un imbecille di Buliziotto, le lacrime, mi devo dare le lacrime, la ditta qua non me ne ammetto, mi cercano una cosa un computer, basta. Uia, male mi stavo sentendo, allucinante. Sì, Marco, il siciliano si chiama Usticchiu Pacchiu. Certo, Sticchiu, Sticchiu. Usticchio, eccetera, bene, bene. Ehi, c'è un vocabolario per chiamarla, vocabolario. Bene, signori, dai, che sono le 20:38, ciao a tutti. Ci sentiamo domani, salvo, tocchiamo ferro, salvo imprevisti, ok? Ciao Franco, ciao Natalino, ciao Claudio. Ciao Marco, ciao. Se non ci vediamo accendi la luce, mi. Oh, Marco. Eia. Guarda che noi accendiamo anche alle 10 di mattina, Ma io alle 10 di mattina mi sto girando dall'altra parte. È sbagliato. È bravissimo che per freddo. Visto là, bravo, di vero. E noi ci siamo da stamattina, ci siamo trattenuti dopo pranzo, ed è sempre dormito. Allora voi vuoi andare a caccia di Serenella? Mai di voi andare, non vi vieni con te con Serenella, no? E lui alle 10 del mattino è ancora in coma profondo, lui Serenella se la deve scordare. No, aspetta un attimo, ma è Serenella con la R o Selenella con la L? Serenella, Serenella, la patata più bella, Serena è. R. Ok, va bene, no, è una cosa mia, ho chiesto per questo. No, per caso le patate contengono selenio anche? No, se no era un buon modo di chiamare patate, selenella da selenio, che fa bene al cervello, non è quello. Bene, ok, ci sentiamo, ciao, ciao, ciao. Devo mangiare pure, pensa che devo pranzare, sono le 9:20, devo ancora pranzare. Tu pensa che fa bene al cervello e al testo? Il selenio? Oh, se fa bene una testa, fa bene anche l'altra testa. Infatti. Tutto un capo intanto, cosa te ne affutti? Tutto un capo è, sì, serenella. Allo vita così l'altro giorno è sfuggita, c'è velocità, gli sta mai da dire. La patata più bella che è. E noi tre minchivi, altri che ballati. Vabbè. Ora sono a 9:20, dai, riprendi Natalia, un altro giro e poi chiudo anch'io e vado a cenare. Ghido deve pranzare ancora, beh da due anche porto male. Ma se pranza a quest'ora come pretende lui di trovare a Serenella, boh! Oh Natalia! C'è ragione! Il giorno per la notte e la notte per il giorno! Non ho capito perché. C'è un orario così, cioè, lui per mangiare, per cenare, ma come ti faccio dire, cena, pranzo e colazione, c'è tutto sbagliato. Come mai si è sbagliato? Ci l'ha chiamato una volta a Piazza dei Cini, sarà stata mezzogiorno e mezza, all'1:20, poi c'è Marco in giro a prendere un aperitivo, lo chiamo. E tu di buon mattino, questa telefonata, ha detto ma te ne siete dello giorno, che l'una manca un quarto, questa è varia, questa è varia. Ma è da poco. No, è così, no, è troppo. Che uno fa i turni come faccio io, domani alle 10 sicuramente sto dormendo, so, magari alle 11 mi alzo, però caspita, quando sei no. Ma tu lo sai fra che il primo periodo che li ho fatti anch'io i turni, quando ero a Perfuras, ho fatto di Perfuras, facevo anch'io i turni, no? Dalle 10 alle 6, non sempre, erano più i turni pomeridiani che facevo che altro, però qualche volta capitava, io però quando rientravo poi, perché partivo a Perfuras alle 6:10, il tempo del cambio di turno, arrivavo a Sassari che sono andato alle 7:20, non mi coricavo, non fra. Andavo a fare colazione al bar e poi me ne rientravo a casa, non riuscivo a dormire di giorno. Ma se per quello rientro io, prima ero più giovane però, capito? Io facevo una notte come la faccio adesso, facevo due mattine, due pomeriggi e due notti. Poi quando uscivo di fare la seconda notte, ci fermavamo a Porto Torres con un collega a pescare, ci fermavamo e ci ritrovavamo a casa, erano le 11 mezzogiorno. Sì, ma è così. No, io no, dormire di giorno a me è come se buttiamo la bella alla traibetta. Non ci riesco, capito? Non ci riesco perché non dormo, qualsiasi rumore mi dà fastidio, non dormo, fra, capito? Poi ci deve giudito. E tu, Tatarì, a dromi? Oh, tu lo stesso sei meglio di me, ti svegli presto, ma io non mi corico neanche tardi. Più tardi che mi posso coricare, adesso che non sto lavorando, è a mezzanotte e mezza. Ma prima io alle 11 ero già nanna, capito? Proprio mi veniva un sonno, vedo profondo, va nulla, non venuta la va. E l'esaurimento nervoso. E tu ubriaco nefragico, vai. Esaurito che ti vedo, ma te a Serenella Bull. Comunque Selenella, trovato la foto, Selenella. Perché si chiama Selenella? Perché è una patata che contiene un alto tenore di selenio, che fa bene allo zaibeddu. Mi ti mando la foto, Selenella. C'era anche un altro spot che diceva Selenella, un amore di patata. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a t entrato in quattro, voi Natalì. Quando vedo Rocco Siffredi che faceva la pubblicità alle patate. Ma infatti lui ce lo può permettere di dire la patata più bella, chi dice non ha visto bene il patato, capito? Come c'è Marco? Io la verità, poche patate, ma sono Latin lover me, e poi io sono brutto, non mi vuole nessuno a me, ogni tanto capita. Eh? Ma come ti piace di più la patata, fritta o bollita? Fritta più saporita, bollita vabbè, buono lo stesso, ma anche cruda, anche cruda, da assaggiare cruda è buona. No, ma a me sono cruda. Cazzo, oggi un cinghiale c'è, ti mangi la patata cruda, che te vega, ne è domato, cazzo. Ma tu non hai compreso mentre... Chissà cruda. Sì, l'ho capito, ma... è meglio come ha detto Franco. Un po' bollita, o friscia, un po' gudoso, capito? È buona condita al forno, madre di Dios. Ehi, altro che Serenella, No, ti sto mandando la confezione, mi. Leggi bene. Se lo manda perché non prende, perché è schifo di connessione. Serenella allora, io avevo preso Serenella. Ho visto così sfuggita, mi no, ne guardo io. Ho visto così la pubblicità che stavano facendo a canale 5. Da lontano non imbatto, cioè da vicino non imbatto, da lontano sì, mi voglia Serenella, invece Selenella, vabbè, allora da oggi si chiama Selenella. C'è con la L, io avevo capito con la R. No, con la L, Selenella, pronto è? Ma c'è Selenella anche? Sì, vabbè, cazzo, pure io voglio Selenella stasera, aia! Hai visto la foto? Sì, l'ho vista la foto, infatti hai ragione tu perché il sacco c'è l'enella. Allora, mi vabbè, la patata più bella. Aia! Vedi, c'è scritto il selenio ha benefiche virtù antiossidanti. Va bene al cervello. Come selenium, come si chiama? ACE, quello che danno agli anziani, me. Fra poco me lo prendo anch'io. Fra poco se lo vogliamo tutti i soggetti. Dai raga, a proposito di patate, io c'ho davvero patate al forno con rosmarino, no? E altre cosettine buone che c'è mio figlio oggi a casa, e ci mangia bene. Ma che mia moglie è una più grande di questi. Ciao Fra, ciao Marco, ciao Natalino, chiunque fosse in ascolto. Sul canale 10, buona serata a tutti, eccetera eccetera. Vabbè, ci sentiamo e viva sempre Selenella, ciao! La patata col grilletto, ciao a tutti, anche io sto chiudendo, ciao Marco, ciao Franco, alle prossime. Sì, vai, chiudo anche io perché devo andare a lavorare, non se lo avrei chiuso. Ci sentiamo tutte le prossime, dai, ciao Claudio, ciao Natalino, a te Marco, ci ascoltiamo le prossime, magari a domani. Domani mattina, anche a più presto, noi veniamo. Sì, oggi dovevo andare in banca per non andare a mezzogiorno e mezza. Siamo andati alle 2, sono preparato e sono andato alle 2 e mezza in banca. Per non andare la mattina, che ero cotto dal sonno. Ma sai perché? Perché io dormo da tardi, alle 3, alle 4, ieri alle 4 ero sveglio. Quindi è tutto proporzionato, dormo da tardi, ma su tardi, capito? Va bene, ciao a tutti, ciao. Ciao, vai, ciao, ciao. Claudio, mi raccomando, disarma quel grilletto. Quello si è già buttato sul piatto, me. Ma che? Ciao, ciao, ciao Natali. Ciao Branco, ciao Marchetto. Ci sentiamo domani, dai.